2024 di Enrico Pagliarini. La puntata del 3 novembre 2012 inizia. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Oggi abbiamo il piacere di avere in regia la parte tecnica, che è fondamentale, Pietro Lacorte, che da un po' di tempo non era dalla, come si diceva una volta, dall'altra parte del vetro a 2024. Vi ricordo che potete comunicare con noi o tramite SMS, molto semplice, 349-238-6666, oppure attraverso il nostro numero verde per parlare con noi per le vostre considerazioni sui temi che vi proponiamo nel corso della nostra puntata, 800-24-0024, oppure avete altre modalità, ovvero la pagina Facebook che ogni tanto io guarderò durante la trasmissione, o anche Twitter, potete utilizzare @Pagliarini, quindi chiocciolina @Pagliarini, oppure l'account di 2024 che potete cercare facilmente scrivendo, cercando 2024, comunque chiocciolina 2024_R24. C'è tempo fino al 19 novembre per iscrivere il vostro sito internet al premio www del Sole 24 Ore, che premia la creatività. Il prossimo anno ci saranno le premiazioni, è un premio molto prestigioso, e quindi tutte le informazioni potete trovarle online sul portale del Sole 24 Ore, molto semplice, www.ilsole24ore.com. Allora, iniziamo con una, diciamo, buona notizia, poi si possono fare mille considerazioni su questa notizia. Allora, dopo numerosi rinvii e alcuni ritardi, è stato nominato finalmente il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Si chiama Agostino Ragosa, probabilmente per gli addetti ai lavori è un nome noto, non lo è per il grande pubblico. Negli ultimi 8 anni è stato in Poste Italiane. Da settembre era il responsabile dell'innovazione e dello sviluppo ICT di Poste. Ragosa ha 62 anni. Nell'annunciare la nomina, il governo ha detto che l'Agenzia per l'Italia Digitale è uno strumento cardine per la realizzazione dell'agenda digitale approvata dal governo. Come ricorderete, ne abbiamo parlato ampiamente nel 2024, nel secondo decreto crescita, quindi lo sviluppo 2.0, che attualmente è all'esame del Parlamento. Allora, sicuramente è una buona notizia, perché questa agenzia ha bisogno di un direttore. Da tempo si discuteva della nomina e si attendeva, visto che poi sono saltate 2 o forse 3 scadenze di questa, della nomina dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Poi mille considerazioni possono essere fatte, ad esempio, visto che stiamo parlando di un'agenzia fondamentale per lo sviluppo del digitale, magari uno che ha 62 anni e che speriamo possa rimanere in carica anche per completare un lavoro, un progetto, quindi arrivi a 65-66 anni, alcuni dicono che magari un quarantenne poteva essere una scelta più audace in un mondo che cambia così velocemente. Però non bisogna fare considerazioni troppo in fretta, aspettiamo anche il lavoro di Ragosa e magari lo inviteremo presto al nostro microfono anche per capire che cosa dovrà fare l'Agenzia per l'Italia Digitale. Questa è la prima notizia che volevo darvi. La seconda, che riguarda sempre l'agenda digitale, allora, dalle dichiarazioni di alcuni ministri e comunque dall'opinione oramai diffusa tra molti addetti ai lavori, al di là del fatto che molte delle cose che sono state approvate dal governo sono attualmente all'esame del Parlamento, ma è opinione diffusa che tutto venga rimandato al prossimo governo, con purtroppo ulteriore perdita di tempo. Allora, il Parlamento, ci auguriamo, approvi presto il decreto sviluppo 2.0, ma per la messa in pratica di queste misure tutto è rimandato al prossimo governo, e siamo ad aprile, poi arriva la primavera e l'estate, e dall'estate si passa velocemente all'autunno, e quindi quasi un anno di ritardo per alcuni provvedimenti importanti. Tra le altre cose, ricordiamo che è ancora in corso una discussione molto accesa all'interno del Paese sulla costruzione di un network di prossima generazione in fibra ottica. C'è una discussione molto delicata tra la Cassa Depositi e Prestiti e Telecom Italia per acquistare la rete di Telecom Italia. Questa è una discussione strategica per il paese ma molto delicata e purtroppo anche in questo caso, oltre a non avere molte informazioni, e c'è chi giustamente ha accusato la Cassa Depositi e Prestiti di non parlare troppo di questo tema, e forse sarebbe il caso di avere maggiore trasparenza, ma oltre a questo problema c'è anche quello dei tempi. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. AudiWeb ha pubblicato i dati di audience della rete internet in Italia relativi al mese di settembre. Sono stati 28,7 milioni gli utenti che si sono collegati almeno una volta tramite computer, con un aumento del 6,4% rispetto all'anno scorso. Nel giorno medio si registra un incremento dell'11% in un anno, con 14,3 milioni di utenti collegati. Quindi attenzione, sono circa la metà quelli che assiduamente utilizzano internet, 14,3 milioni nel giorno medio contro i 28,7 milioni di utenti che si collegano almeno una volta al mese tramite computer. Non capisco cosa ci faccia uno che si collega solo una volta al mese a internet, io non potrei stare qualche ora senza essere collegato a internet. Comunque le cose stanno così, anche se, questo lo specifichiamo, AudiWeb si basa su statistiche e non su misurazioni effettive di quello che succede su internet. Altra notizia della settimana: sono stati condannati in Virginia due membri di un gruppo di pirati informatici che si chiama Imagine, che negli Stati Uniti voleva diventare famoso per essere il primo a mettere su internet i film che stavano per uscire al cinema. Allora, uno si è preso 30 mesi di carcere e un risarcimento danni per quasi $450,000. L'altro 23 mesi di galera e $7,500, se l'è cavata con poco. Il governo degli Stati Uniti ha detto che il caso fa parte dell'azione di una task force per combattere il furto della proprietà intellettuale. Un altro conoscente della giustizia americana che vorrebbe estradarlo negli Stati Uniti, Kim.com, ricordate questo tedesco trasferito in Nuova Zelanda che ha avuto parecchi problemi con la giustizia nel corso degli ultimi 20-30 anni, allora è il creatore di Mega Upload, arrestato il 19 gennaio nella sua casa in Nuova Zelanda con un'operazione guidata dall'FBI, una cosa da film. Allora ha annunciato la nascita di un nuovo sito di file sharing chiamato Mega, è un dominio del Gabon, me.ga. Oggi sul sito kim.com/mega si legge che il 19 gennaio 2013 nascerà un sito più grande, migliore, più veloce, più forte, più sicuro. Allora, kim.com sostiene che il sito sarà progettato per essere inattaccabile anche legalmente. Panasonic uscirà nuovamente dal mercato della telefonia mobile in Europa a partire dal 2013. Gli smartphone Eluga, forse il nome non ha portato molta fortuna, sono stati lanciati a febbraio, non hanno raggiunto i livelli di vendite sperati. Il piano di ritiro rientra in un più ampio piano di risanamento di Panasonic. Apple ha risolto alcuni problemi della versione 6 di iOS. Da un paio di giorni è disponibile l'aggiornamento alla versione 6.0.1. Chiudiamo con Steve Ballmer, l'amministratore delegato di Microsoft, che ha annunciato che l'azienda nei primi 3 giorni dopo l'uscita di Windows 8 ha venduto 4 milioni di copie, la stragrande maggioranza delle quali di download. Sono poche? Sono molte? Dipende dai punti di vista. L'obiettivo è comunque ambizioso: vendere 400 milioni di copie entro il prossimo luglio. Adesso parliamo di banda larga, della necessità di portare connettività in giro per l'Italia, e al di là di questo piano di cui si sta discutendo, ne abbiamo parlato più volte, quindi non vi tedio con il piano per costruire un network di prossima generazione in fibra ottica in tutto il paese, ma sicuramente questo piano partirà, come logico che sia, sta succedendo questo anche per il 4G, partirà nelle grandi città e ci sono già progetti per stendere fibra nelle grandi città. Che cosa succede invece nelle zone o addirittura fallimento di mercato, quelle che vengono definite a media profittabilità? Probabilmente le regioni, comunque gli enti locali, dovranno farsi carico assieme alle aziende di stendere e portare fibra ottica direttamente nelle aziende in primis e poi naturalmente anche nelle case, anche se per le case qualche cosa lo si può fare con le tecnologie wireless, quindi WiMAX e HyperLAN, e anche di questo abbiamo parlato ampiamente. Adesso vi parliamo di un progetto che è nato in Lombardia grazie ad un finanziamento della regione, e ne abbiamo parlato recentemente con Giacomo Piccini, che è il direttore della Fondazione Distretto Green High Tech Monza e Brianza. Voi come distretto in Monza e Brianza state coordinando un progetto per portare fibra, come si dice in gergo tecnico, fiber to the home o to the office, quindi direttamente alle aziende. In che cosa consiste questo progetto, ma soprattutto qual è il motivo per cui credete fortemente che le aziende di un distretto in Monza e Brianza abbiano bisogno di fibra? Sì, Regione Lombardia ha stanziato 1.100.000 euro per un progetto pilota che deve coprire con Fiber to the Office le aree industriali di Concorezzo e l'area Exinger di Monza. Questo succederà al raggiungimento di una quota minima di 300 aziende su una popolazione di circa 500, tutte PMI. Perché noi crediamo che questo sia un valore aggiunto? Beh, perché ormai qualunque informazione si sta diventando sempre più pesante, sempre più con video, ma informazioni di lavoro, e quindi dare questa infrastruttura che abilita questo scambio alle PMI di quell'area significa dare un boost alla possibile evoluzione, alla crescita di queste PMI. Senta, voi avete fatto un modello, un piano di business che dice già oggi quanto un'azienda spenderà per un servizio XY. Ecco, ci dà un'idea? Sì, la connettività costerà 50 euro al mese massimo. Questo è il target. Inoltre, Camera di Commercio di Monza e Brianza mette a disposizione delle prime 280 aziende, quindi praticamente della totalità delle 300, un voucher di 300 euro per cui i primi 6 mesi saranno gratuiti. Questo è un costo estremamente inferiore a quello che oggi viene messo a disposizione di chi vuole i 100 mega. Quindi verrà fatto in questo modo qui. Quindi prezzo bloccato per quanto tempo? Per 2 anni. Dopodiché gli operatori potranno decidere di aumentare, anche se nel bando verrà richiesto che questo livello di prezzo venga mantenuto anche per altri 3 anni, per la pura connettività, in cui poi possibile guadagno degli operatori starà nel convincere il restante numero di aziende, e quindi quello non sarà messo a bando, oppure a veicolare servizi aggiuntivi che a quel punto potranno essere veicolati con molta maggiore efficienza. Senta, naturalmente io spero fortemente che questo numero di 300 venga raggiunto molto velocemente, anche perché credo fortemente che alle aziende serva, o meglio servirà, quindi un'azienda deve essere anche lungimirante, guardare nei prossimi anni. Dopodiché cosa succede? Cioè la fibra chi la posa e soprattutto chi gestirà questa infrastruttura? Beh, questo viene messo a bando dalla Regione Lombardia, quindi ancora non ho una risposta, però al raggiungimento delle 300 adesioni la Regione Lombardia farà partire 2 bandi diversi, uno per la costruzione dell'infrastruttura e uno per la gestione della rete. Quindi dopodiché ci sarà un'azienda che gestisce l'infrastruttura e poi gli operatori possono fare le offerte in concorrenza. Assolutamente, assolutamente sì, rimarrà ovviamente totale unbundling. Beh, se pensiamo che alcune aziende non hanno ancora aderito, per me la cosa è incredibile, e quindi invito le persone che abitano nella zona, le aziende che sono in questa zona interessata, a parlare con le aziende che ancora non hanno aderito. Magari scrivetemi, telefonatemi e cercheremo di spiegare perché è importante collegarsi in fibra ottica, ma questo è un esempio di quello che si può fare in altre aree del paese. Abbiamo parlato qualche mese fa del progetto del Trentino, un altro progetto interessante per zone che sicuramente non verranno raggiunte, almeno in una prima fase, in un progetto più ampio nazionale. Sono le 15:45 minuti, adesso ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, però prima volevo farvi volevo salutare io, ma fare un saluto agli ascoltatori, a Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. Massimo, ciao, benvenuto. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. E Luca Figini, che assieme a Massimo Morandi fa una lunga lista di prodotti di cui parleremo. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Allora, voi avete portato un po' di cose, ci sono un po' di telefoni, un po' di smartphone. Non si vedono, ma li racconteremo, perché questi ultimi 10 giorni sono stati, devo dire, incredibili, perché sono stati fatti un sacco di annunci. Massimo, giorni che non vedevamo da mesi. Ma secondo me da anni. Ah, da anni. Proprio ieri parlavamo con alcune aziende che ci dicevano che tanti fuochi d'artificio di prodotti in così poco tempo non si vedono forse da 5-10 anni, anche per quanto riguarda poi la tecnologia dei prodotti presentati, non solo il numero. Sì, parleremo di questo nella seconda parte. Io vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi, tablet e smartphone, delle novità che sono state presentate, 800 24 00 24. Tra poco. 2024 riprende 2024, vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24. La prossima settimana tornerà a Milano la Games Week 2012, tornerà la Games Week, questa è la 2012, dal 9 all'11 novembre a Fiera Milano City, la parte della Fiera di Milano in centro città. Direi che più che la Games Week, direi Games Weekend, perché è un fine settimana, sicuramente l'appuntamento più importante in Italia per il mondo del videogioco, per vedere in anteprima tutte le nuove uscite e per farsi anche un'idea di che cosa offre il mercato. Allora, questo è un mercato che coinvolge circa 12 milioni di famiglie in Italia e un valore di 1 miliardo di euro. Allora, Games Week è aperta a tutti, ci sarà uno spazio espositivo, c'è anche un'arena tornei dove provare a mettersi alla prova. Trovate tutte le informazioni su gamesweek.it. Dicevo che la fiera è aperta a tutti, ma è anche un'occasione di incontro per i protagonisti di questo mercato e in particolare per gli sviluppatori che si ritroveranno all'Italian Game Developers Summit. E proprio per capire quanto è grande questo mercato, ASV, che è l'associazione che rappresenta in Italia l'industria del videogioco, ha fatto un'analisi che è stata presentata recentemente alla Camera dei Deputati. Andrea Persegati è il presidente di ASV. Noi oggi abbiamo presentato un censimento dell'industria videoludica in Italia che conta circa una settantina di realtà che però non sviluppano un fatturato significativo. Pensiamo che in Italia i videogiochi fatturano più o meno 1 miliardo di euro all'anno, di cui forse una ventina prodotti localmente. Questo però non vuol dire che sia una strada senza sbocchi. Riteniamo che l'industria videoludica possa crescere. Oggi abbiamo presentato lo studio e abbiamo avuto anche il conforto delle parti politiche che ne hanno preso atto e che hanno almeno sulla carta dichiarato l'intento di volerla supportare. È un'industria che può dare molto non solo perché parte dal basso, qui sarebbe facile, ma perché è una tecnologia che non ha uno sviluppo, un impiego univoco nella realizzazione del videogioco stesso, ma realizzare un videogioco può voler dire realizzare uno strumento di intrattenimento o piuttosto che uno strumento di formazione, piuttosto che un'applicazione 3D di simulazione. Il videogioco come industria non deve essere inteso nell'unica accezione, spesso più frequentata, che quella dello strumento rivolto solo all'intrattenimento specifico, ma in realtà la tecnologia consente di fare tantissime cose. Stiamo parlando di un'industria che si colloca all'interno del settore dell'intrattenimento, stiamo parlando di softwareisti sostanzialmente, cioè gente che programma. Allora, da questo punto di vista, che tipo di potenzialità può avere il mercato italiano? Allora, abbiamo sentito, adesso lo ricordavamo, che 15 milioni è quello che viene prodotto in Italia, ma il mercato vale 1 miliardo di euro, quindi diciamo c'è una potenzialità di crescita incredibile. Quindi possiamo aumentare il software e il videogioco prodotto in Italia. Ma al di là dei numeri, perché c'è un valore in tutto ciò? Ma al di là dei numeri, il valore è innanzitutto numericamente non solo relativo al mercato italiano, perché ormai il mercato del videogioco è un mercato globale. Ormai un buon sviluppatore senza degli investimenti macroscopici può creare un'app che può tranquillamente mettere sull'App Store oppure sull'App Store di Android, di Apple o di Android, e quindi rendere disponibile al mondo intero. Quindi le barriere che una volta c'erano, che erano legate alla diffusione sulle piattaforme classiche rigide, sono state abbattute sia dal punto di vista regionale che dal punto di vista dell'investimento, perché oggi realizzare un'app non costa più quanto poteva costare realizzare un software per una piattaforma tradizionale. Cioè, stiamo parlando di poche migliaia di euro? Stiamo parlando di 50.000 euro probabilmente per realizzare un software di un certo rilievo, che è un numero non bassissimo, però non è neanche un numero esorbitante. Se pensiamo che l'industria queste potenzialità le può avere, ma le manca solamente il supporto, l'inerzia per poter partire. Noi abbiamo gli sviluppatori, poi un videogioco non è fatto solo da codice, è fatto da creatività, è fatto da componenti musicali, quindi serve qualcuno che capisce di musica, qualcuno che capisce di cinematografia, qualcuno che riesce a mettere giù uno scenario per lo svolgimento del gioco, quindi tutti i skill che a destra o a sinistra abbiamo e che messi insieme possono portare alla realizzazione del prodotto completo. Il mercato sicuramente esiste, seppur ancora con mille difficoltà, con dimensioni ridotte, ed è un mercato che ha creato posti di lavoro, ne creerà nel futuro. Allora, anche l'università ha cominciato da qualche anno ad occuparsi del tema. Non che le università ci prendano sempre, ci sono anche corsi universitari che sono dei biglietti per la disoccupazione, però in questo caso mi sembra una buona idea. Abbiamo parlato di videogiochi con il professor Pier Luca Lanzi, che insegna Video Game Design and Programming al Politecnico di Milano. È un corso nuovo, nato da 2 anni, abbiamo avuto in tutto in 2 anni un 120-130 studenti. La cosa interessante è che da un anno è gemellato anche con un corso dell'Università di Milano, che è Online Game Design, tenuto dai miei colleghi Dario Maggiorini e Laura Ripamonti. E la cosa interessante è che siamo gemellati, nel senso che gli studenti dell'Università di Milano possono prendere il mio corso, i miei studenti possono prendere il corso all'Università di Milano e siamo messi al primo semestre e al secondo semestre in modo da essere contigui. Quindi, idealmente uno studente può iniziare col mio corso e vedere lo sviluppo di giochi senza considerare il multiplayer, che ha delle problematiche ben specifiche, e poi può specializzarsi o può andare a continuare la sua preparazione con il multiplayer, con giochi multiplayer, andando all'Università di Milano. Abbiamo già avuto degli scambi, già circa 5-6 studenti hanno fatto entrambi i corsi, è stata un'ottima esperienza, anche perché si sono mescolati informatici, diciamo puri di scienze, con gli ingegneri informatici, ed è stata effettivamente una bella esperienza. Ed è anche una scelta, direi, audace che un'università si occupi di questi temi. È audace. Di fatto è anche l'unica soluzione, nel senso che è difficile pensare che in Italia, per la nostra struttura, ci possano essere delle università, diciamo, pubbliche che abbiano una specializzazione completa in videogiochi, anche perché noi dobbiamo tenere una cultura molto generalista e cerchiamo di fare delle figure a 360 gradi. C'è di fatto che, aggiungendo al corso di Video Game Design il corso di Human Computer Interaction, il corso di Computer Graphics, il corso di Interactive TV, eccetera, ci si può costruire un bel curriculum nella laurea magistrale che effettivamente copre un certo numero di crediti sostanzioso sul videogioco. A questo si sono aggiunti, ad esempio, nell'ultimo anno soltanto due corsi sul Mobile Application Development. Tutti i corsi sono in inglese, che è una cosa interessante, sono assolutamente tutti in inglese. Sì, anche perché il mercato è un mercato globale mondiale, anzi, probabilmente chi comincia a sviluppare videogiochi non ci pensa nemmeno all'Italia. Diciamo che non è che non ci pensa come sede, però sa che vendere si vende molto all'estero, deve pensare molto all'estero. È stato molto interessante il caso di un mio studente, Luis Bento, che è un brasiliano italianizzato, e ha sviluppato un'applicazione ed era molto depresso perché ne aveva vendute poche copie, tipo 300 copie all'inizio, e aveva detto: professore, che le devo dire? Saranno solo miei amici. Dopo la prima settimana di vendita ha visto il grafico. No, non erano solo i suoi amici, aveva venduto esattamente come ci si aspetta nel mercato Apple Store e Android, quasi tutti i giochi in Stati Uniti e in Gran Bretagna. E quindi è per forza un mercato globale. È interessante come alcuni dei miei studenti, ad esempio, quelli che hanno sviluppato un gioco che si chiama Dirty Little Bunnies, ad esempio, hanno già un'ottica dicendo: questo tipo di personaggio piacerebbe ai giapponesi, e quindi hanno fatto un'internazionalizzazione giapponese o comunque orientale, perché già pensano a quel tipo di mercato. È una cosa che spinge, le comunità online dove si parla di marketing spingono già a questo, si sa già che certe cose possono funzionare in un paese e in un altro, e quindi effettivamente è interessante, cioè pensano all'Italia come stare in Italia perché permette di stare in Italia, però pensano globale come vendita. Questo è 2024, chiudiamo questa pagina dedicata ai videogames, un mercato sicuramente molto importante, molto interessante anche come prospettive di business e di lavoro. Allora, vi ricordo la prossima settimana gamesweek.it, tutte le informazioni. Noi ci risentiamo tra poco, vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi, per le vostre domande, anche le vostre considerazioni, 800240024. Parleremo delle novità che sono state presentate dal mercato negli ultimi giorni, a partire da Windows Phone, i nuovi terminali presentati da Google, ma questi sono solamente alcuni esempi, l'iPad mini che è arrivato ieri e sicuramente i tablet mini, quindi i 7 pollici, gli 8 pollici, sarà un tema di cui parleremo con i nostri esperti Massimo Morandi e Luca Figini tra poco, dopo le notizie di GR24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024, bentornati al nostro programma, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 che trovate anche in podcast. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica e oggi nel nostro studio Massimo Morandi e Luca Figini. Allora Massimo, partiamo proprio dalle novità che sono state presentate questa settimana e sicuramente, anche se non è stata una sorpresa perché era ampiamente annunciata, Windows 8 è stato presentato proprio all'inizio, il 29 di ottobre, perché parliamo di Windows Phone, non di Windows 8, Windows Phone. Allora, parliamo di Windows Phone perché è stata presentata la nuova versione, quella numero 8, ed è naturalmente una versione che in totale continuità con la piattaforma che aveva contraddistinto fino ad oggi gli smartphone Windows Phone. Cosa è stato aggiunto? Beh, sono state aggiunte alcune funzioni sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista grafico. Dal punto di vista grafico l'interfaccia cambia, ma naturalmente non stiamo parlando di una rivoluzione. È sempre il sistema operativo caratterizzato dai live tile, che sono quelle caselline quadrate animate. Cioè, a me piace chiamarle quadrettoni. Sono dei quadrettoni animati all'interno dei quali però anche quando il telefono è posizionato su un tavolo in posizione di stand by, quindi quando noi non stiamo interagendo con il dispositivo, comunque cambiano forma, colore, ci fanno vedere le immagini di chi abbiamo nella rubrica telefonica e comunque sono risultati molto intuitivi e sono piaciuti al consumatore. Quindi sono stati mantenuti, di più sono stati resi ancora più personalizzabili, perché non sono più solo personalizzabili ad esempio nella posizione ma anche nelle fattezze, nelle misure. Quindi le applicazioni che noi usiamo di più non saranno solo nella parte superiore dello schermo, ma potranno anche essere di dimensione maggiore. Questo dal punto di vista grafico. Poi, quindi mi verrebbe da dire che di novità vere Windows Phone 8 non ne ha tante rispetto a Windows Phone 7.5. Allora, queste sono naturalmente le novità grafiche. Dal punto di vista di novità di funzioni, innanzitutto abbiamo tutta la parte di NFC di portafoglio che ci permette che permetterà forse questa settimana, se anche magari poi ne parleremo, si è anche mosso qualcosa, c'è stato un accordo di tutti gli operatori di fare delle sperimentazioni per pagare qualcosa con il cellulare, però comunque la piattaforma è pronta, l'NFC serve anche, sappiamo bene, per pagare ma anche non solo per quello, i telefoni lo utilizzeranno anche per scambiare dati avvicinando solo due telefoni, e non è male, sì. Anche perché spesso queste piattaforme hanno magari il Bluetooth chiuso, quindi questo sarà sicuramente più agevole scambiare i dati con due telefoni con la stessa piattaforma. Skype dovremmo vedere la versione a giorni, tra l'altro l'uscita dei telefoni è a giorni. Posso dire che forse la novità è che ci sono dei nuovi prodotti Windows Phone a partire da Nokia? Ci sono naturalmente, questa è una novità, nuovi prodotti. Direi che la vera novità è che sono prodotti di diversi brand, di diverse marche. E quindi in questa quali sono? In questo momento ci sono due Nokia, due HTC e un Samsung con la serie Active. Che sono già sul mercato? A giorni, penso arriveranno tutti sul mercato a metà novembre. Ma dal 2013 sicuramente ne arriva anche uno smartphone di Huawei e naturalmente si sta lavorando per portare altri partner e per portare nuovi telefoni dei partner con cui già è stato chiuso un accordo. Sono telefoni tra l'altro tecnologicamente molto avanzati, i Nokia che ad esempio abbiamo qui sulla scrivania. Sì, sì, devo dire che Massimo Morandi e Luca Figini mi hanno portato una serie di prodotti e diciamo che dopo la trasmissione anche Pietro Lacorte si divertirà a fare qualche test. Però Massimo, è una gara dura, eh? Cioè, è una andare gara dura contro iPhone, quindi iOS e Android, non è mica facile. Allora, non è per niente facile, però questo è un mercato che è ancora che si sta muovendo molto. Allora, tieni conto che il mercato italiano, parliamo di mercato italiano, ma naturalmente poi possiamo amplificarlo a livello mondiale. Qui si vendono 21 milioni di telefoni all'anno. In Italia? In Italia, 20-21 milioni. Nei primi 8 mesi di quest'anno il valore dei telefoni è salito del 21%, mentre è sceso la vendita in unità del 4%. Questo cosa significa? Significa che si vendono sempre meno telefonini tradizionali, i cosiddetti feature phone, come vengono chiamati anche con un brutto termine, si vendono sempre di più smartphone. Ma c'è di più. Se nel 2011 gli smartphone sono stati 6 milioni, con molta probabilità quest'anno saranno 10-11 milioni. Se nel 2011 ogni 100 telefoni si vendevano 30 telefoni smartphone e 70 telefonini tradizionali, oggi si vendono 60 smartphone, 40 telefonini tradizionali. È chiaro che qui si sta giocando la partita, il segmento degli smartphone ormai sta dilagando e sta comprimendo dappertutto, su tutti i settori, su tutti i segmenti di prezzo, i telefonini tradizionali, e qui si giocherà la battaglia. È ovvio. Tu dici, c'è un mercato così che cresce così tanto che c'è spazio anche per altri player, e quindi anche Microsoft, che oggi ha una quota di mercato irrilevante, insignificante. Attenzione però, perché se ancora vediamo l'inizio di quest'anno, prendendo magari gennaio 2012, noi vedevamo Windows Phone al 3%. Ad agosto Windows Phone aveva una quota del 10,2% in Italia. Mondiale? In Italia. Sto parlando di quota Italia. Italiana. Questo grazie ad esempio al traino del Lumia 610, che ha avuto una performance anche con un operatore molto importante, ma questo ti fa capire che se davvero il portafogli dei prodotti si apre, e in questo caso non sarà più solo Nokia, ma ci sarà Samsung, ci sarà HTC, ci saranno altri competitor, ci potrebbe ancora muovere qualcosa. Adesso mi faccio una domanda difficile. Perché un utente, un cliente dovrebbe comprare un Windows Phone? Ma guarda, questa è una domanda che mi hanno rivolto. Una risposta potrebbe essere perché c'è Nokia, e Nokia sicuramente è un brand di qualità che potrebbe attirare. Però sarebbe oggi banale, perché presto avremo molti telefoni, molti marchi. No, certo, però uno dice, beh, c'è Nokia, quindi... Ma io ti direi perché ha un sistema operativo completamente diverso dagli altri. Perché è completamente diverso dagli altri proprio nell'utilizzo. Ha innovato e non ha cercato di scimmiottare nessuno, ma è andato per la sua strada. Naturalmente può piacere o non può piacere, certo. È fortemente personalizzabile, molto più di Android, tanto per fare nomi e cognomi. Magari Luca ha altre... Ma secondo me anche perché si inserisce... Ma puoi anche dirmi un motivo per non comprarlo, siamo liberi di dire quello che vogliamo. Te ne dico uno per comprarlo e magari uno anche per ragionarci un po' su. Uno per comprarlo è sicuramente il fatto che si inserisce perfettamente nell'ecosistema di Windows, soprattutto adesso che arriva Windows 8, Windows RT, tablet, PC, e poi c'è l'Xbox. Aggiungere anche un telefono Windows 8 vuol dire avere con sé i propri dati sincronizzati nel cloud con la portante che è SkyDrive, avere Office sul telefonino uguale a quello che è sul tablet, uguale a quello che sei su PC, puoi lavorare, puoi avere le tue foto sempre sincronizzate, eccetera. Quindi tu dici, è talmente vasta la platea di consumatori che hanno un PC Windows che probabilmente aggiorneranno. Io devo dire che se uno ha Windows 7 ed è contento può aspettare ad aggiornarla a Windows 8, però sicuramente molti computer, tutti i computer PC che usciranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, già oggi hanno Windows 8, quindi la platea è così vasta che se uno vuole nativamente avere una sincronia, un unico ambiente, un'unica interfaccia grafica, dici questa potrebbe essere una motivazione. Sì, l'interfaccia è omogenea, sì, hai ragione, può anche aspettare Windows 7, ma comunque la sostanza non cambia, cioè la sincronizzazione avviene comunque perché SkyDrive, i servizi di sincronizzazione, quindi di trasferimento dei dati, sono nativi in Windows. Certo, con Windows 8, installando Windows 8 hai qualcosa in più, ma puoi usarlo comunque. Quindi hai un'esperienza omogenea, passando dall'Xbox, quindi sul televisore, al tablet, al PC, al telefonino. un motivo per cui magari ragionarci un attimino, aspettare, meditare è sulle app. Quindi Windows Phone è interessante, ha una bella interfaccia, nuova, innovativa, eccetera, però sul fronte delle app ancora ha bisogno di crescere. Si sta muovendo velocemente, da qui con Windows Phone 8 poi probabilmente la velocità di pubblicazione delle app aumenterà, però insomma... Sì, ci sono ancora molte poche app, questo è quello che vuoi dire, Luca. Su questo Luca secondo me ha toccato un punto fondamentale, quello delle app, perché sono le app che oggi stanno fidelizzando il consumatore sulla piattaforma, magari non sul tipo di telefono o sul brand, lì ci sono altri tipi di fidelizzazioni, ma sicuramente sulla piattaforma. Noi che, quindi sul sistema operativo. Sul sistema operativo. Android, noi che, iOS, guarda Windows Enrico, Phone. Noi che comunque per lavoro proviamo tanti telefoni di diverse piattaforme, lo notiamo, perché la cosa più terribile quando tu cambi un telefono, o meglio cambi la piattaforma, perdi completamente tutte le app che avevi. E devi cominciare a installare Facebook, Twitter, magari queste sono le più banali, le app dedicate ai tuoi interessi personali. Ed è qui che Windows non può più sbagliare. Oggi loro stanno lavorando affinché le top 400-500 applicazioni siano presto nello store, perché solo così potranno veramente decollare. Bene, adesso ci fermiamo per un minuto, vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi, 800240024, potete interagire anche su Facebook nella nostra pagina oppure su Twitter, io leggo i messaggi in cui mi citate, chiocciolina e underscore Pagliarini. 2024. Un problema che sicuramente molti dei nostri ascoltatori che hanno Windows Phone 7 o tutte le versioni che sono arrivate dopo, quindi le precedenti a Windows 8, avranno e hanno è che non c'è compatibilità tra i due sistemi operativi, giusto Massimo? Quindi l'aggiornamento di chi ha 7 arriverà fino a 7.8, non ci sarà salto diretto all'8 perché questo significa dover acquistare nuovi telefoni. Comunque poi ci sarà sul singolo prodotto ci sarà un'attenzione da parte di Microsoft sugli aggiornamenti di 18 mesi, quindi Microsoft assicura che i nuovi prodotti verranno seguiti con gli aggiornamenti, verranno seguiti a lungo. Sì. Dunque io ho fatto un po' di prove, non come voi, dalla mattina alla sera, dal tramonto all'alba, un po' meno, con Windows Phone, e devo dire che il prodotto funziona bene, e mi verrebbe da dire che Windows Phone è sicuramente meglio di Windows. Cioè l'aggiornamento di Windows 8 è sicuramente peggio di Windows Phone 8. Questo mi sembra dalle prove che ho fatto io. Luca, hai un parere tuo? Ma sì, è molto più convincente l'approccio di Microsoft a quello degli smartphone, ma probabilmente anche perché sugli smartphone Microsoft deve inseguire, quindi deve giocarsi tutte le carte che ha, qualunque asso nella manica abbia deve esporlo sul tavolo, perché la concorrenza si chiama Android 4.2, si chiama iOS, si chiama iPhone, quindi insomma deve sfoderare tutte le armi. Senti, visto che... Prego. No, su PC ha il 92% del mercato, quindi se anche solo un terzo nei prossimi tre mesi aggiorna il computer a Windows 8 è già un successo. Poi comunque tutti i computer nuovi escono con Windows 8 sicuramente. Senti, abbiamo detto che l'interfaccia grafica è unica su telefono, quindi su smartphone, su tablet e oggi su PC. A proposito di tablet, che cosa c'è sul mercato? Poi passiamo anche ad Android e a Google in particolare, che ha fatto una presentazione virtuale a causa dell'uragano, poi ne parliamo. Senti, ti cito tre tablet, due con Windows 8 e uno con Windows RT. Che Windows RT, vorrei ricordarlo, così chiarisco il punto. L'acronimo Windows RT non è una versione limitata di Windows 8, cioè... mi permetto di correre, nel senso che Microsoft ci tiene a dire che Windows 8 è Windows 8 e Windows RT è Windows RT, però poi RT è l'acronimo di runtime, quindi praticamente è una piattaforma che funziona solo sui processori ARM, quindi è una piattaforma che permette di installare solo le app che scarichi dallo store, come nel caso dell'Asus Vivo RT, che è uno dei tablet che ti volevo annunciare, che ha display di 10 pollici e memoria SSD da 32 giga, 2 giga di RAM, ha un processore ARM Tegra 3 quad core 1,3 GHz e costa 599. A fronte di questi modelli, quindi, che possono installare solo le app dall'App Store, quindi non da Marketplace, quindi non anche da Windows Store e non anche dai siti internet o dai share che si trovano normalmente per Windows, ci sono i tablet con Windows 8 effettivamente. È il caso dell'Ative Smart PC, per esempio, che usa processori Intel, quindi dalla fascia bassa che usa un Atom fino ai 5 e ai 7 nella versione professional. Ha anche in questo caso un display da 11 pollici circa e ha la docking station con la tastiera integrata, quindi puoi utilizzare solo il touchscreen o unito alla tastiera, quindi come se fosse un mini PC, e a prezzi che vanno da 699 a salire a seconda della versione. Costa mica troppo questi nuovi prodotti? Eh sì, pensa che Sony pensa costa quasi 1160 euro. È vero che ha un design particolare, perché la tastiera swivel, quindi si nasconde sotto il display, però siano prezzi abbastanza alti. Com'è la tastiera? Swivel. Cioè al meccanismo, quello che scorre e fa la fa nascondere sotto il display, quindi quando poi il display scorre compare la tastiera e rimane orientato a circa 45 gradi il touchscreen. Sì, costano abbastanza, considerando che il benchmark comunque rimane l'iPad nella fascia alta, quindi da 499 a 799, o nella fascia diciamo un po' più bassa rimane il Nexus 7 che è a 249. Esatto. Allora, tu hai citato, poi parliamo anche di iPad mini naturalmente, che è sul mercato da ieri. Tu hai citato Nexus. Allora, la famiglia Nexus è la famiglia dei tablet marchiati Google. Non li produce Google, ma li producono, se non sbaglio, a turno Samsung, HTC ed LG. Questi sono i partner di Google, giusto? Sì, allora Nexus comprende anche gli smartphone, quindi Nexus è la famiglia, diciamo, di riferimento che Google considera come riferimento nel mercato. Quindi sì, sono questi prodotti. C'è stato anche HTC in passato, questa settimana addirittura tre prodotti di tre brand diversi. Esatto. Che cosa è stato presentato? C'era annunciato un annuncio in contemporanea a quello di Microsoft, un po' per fare un po' di concorrenza, un po' di rumore. Poi purtroppo ci sono stati i problemi dell'uragano che hanno causato, insomma, purtroppo anche vittime a New York e nelle aree limitrofe. Allora Google ha rinunciato a questo evento, però gli annunci sono stati fatti comunque. Che cosa è stato annunciato? Ha annunciato intanto un aggiornamento del Nexus 7, parto da quello più semplice, ovvero oggi in commercio in Italia il modello da 16 giga arriverà anche da 32 giga e anche con il 3G integrato, che era il modulo che mancava. Perfetto, quindi un aggiornamento del 7. Un aggiornamento del 7. 7 sta per 7 pollici? 7 pollici, sì. Ok. E poi c'è stato presentato il nuovo tablet da 10 pollici, il Nexus 10, prodotto da Samsung. Display da 10 pollici, risoluzione spettacolare 2005x1600 punti, cioè ancora più definito del Retina dell'iPad 3-4, perché Retina si ferma a circa 290 punti per pollice, ieri a 300, quindi veramente non vedi pixel sul display. Questa è la sintesi della tecnologia. Ma la cosa interessante è anche il processore, perché oltre ad avere Android 4.2 che ha un'interfaccia rinnovata e alcune funzioni aggiuntive sulla fronte multimediali, è il processore. Il tablet è prodotto da Samsung. Samsung ha portato a battesimo il nuovo Exynos 5, che è processore evoluzione di quello che è impiegato nel Galaxy Note 2 o nel Galaxy S3. L'Exynos 5 ha la particolarità di... Come si chiama, scusa? Exynos 5. Ecco, diciamolo piano perché queste cose non si capiscono tanto. Exynos 5. Sì. Perché è importante? Perché me lo citi? Te lo cito perché non è quad core. A differenza della fascia alta oggi che è quad core, questo è un dual core, ma ha una tecnologia Cortex diversa. Il Cortex è l'architettura. Adesso gli chiudiamo il microfono a Figini perché lui si... No, gli piacciono i processori. Semplifico. A parità di clock va il 40% in più, perché usa un'architettura, un insieme di istruzioni molto più efficienti, che quindi basta un dual core per avere prestazioni superiori a un quad core. Però noi da te, Figini, vogliamo sapere se funziona bene. Funziona bene perché, per un motivo, perché ha Android 4.2 e ha un'interfaccia ancora ulteriormente perfezionata per i tablet. Perfetto. Ultima novità presentata da Google? È il Nexus 4. Ed è uno smartphone. Ed è uno smartphone, prodotto da LG. 4 pollici. Cioè. 4 pollici, sempre Android 4.2, processore quad core, display in HD e fotocamera da 8 megapixel. Dunque Massimo, comunque in generale il problema delle app che tu hai citato è un problema sia quando si passa da una piattaforma all'altra, ed è anche, devo dire, un vincolo che ci lega a quel prodotto. È proprio questo. ed è un vincolo che è anche stato utilizzato dai produttori e dai responsabili delle piattaforme, delle grandi aziende, per non fare emigrare gli utenti. Abbiamo spesso parlato della differenza tra app e web app e della pigrizia con cui si sta passando alle web app. Ancora se ne vedono poche. La ragione filosofica è proprio questa: se tu hai le app, con grande probabilità rimarrai molto più fedele alla piattaforma e ci penserai tre volte prima di cambiarla. Con un'app, diciamo, polivalente, che funziona su tutte le piattaforme, quindi multipiattaforme, cambiare piattaforma è un attimo. Tra l'altro, proprio mentre prima parlava Luca, ancora avevo nelle orecchie la tua domanda: ma perché uno dovrebbe passare a Microsoft e c'è spazio per? E mi veniva in mente, e mi sono venuti in mente i tre telefoni, sto parlando sempre dell'Italia, che in questo momento sono i più venduti, che sono nell'ordine: quali sono? L'iPhone 5, certo, il Samsung Galaxy S3 e Lumia 610. Sono esattamente un iOS, un Android e un Windows Phone. Quindi forse qui c'è già un pezzettino di risposta. Sì, con bisognerebbe vedere anche quali sono le differenze, diciamo, di vendita. Tra il primo e il secondo pochissime. Sì. Stiamo parlando di qualcosa come 100.000 pezzi al mese. Ma sì, anche il terzo è abbastanza vicino. Perché costa poco? Allora, costa meno, naturalmente. È con un operatore che ne ha fatto una campagna perfetta. Come si chiama? Tim. E comunque è piaciuto perché ha questa serie di funzioni, questo equilibrio. Poi va anche molto col bene design, quel telefono. Funziona assolutamente bene, funziona, ma è anche bello, è piaciuto nel design. Sì. Insomma, ha avuto una formula vincente, sì, che sì, spesso sì, non tutti i telefoni hanno. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta: 800240024. Abbiamo recuperato Roberto da Padova. Buonasera, l'ascoltiamo, Roberto. Salve. Siccome sono in fase di cambiamento sia di smartphone che di tablet, e io sono un po' appassionato di BlackBerry, volevo sapere cosa succederà da gennaio con la nuova piattaforma 10, mi sembra, e così via. Grazie Roberto, anche io sono un appassionato di BlackBerry, anche per la storia dell'azienda, ma mi prendono tutti in giro. Luca Figini ha partecipato la settimana scorsa ad un evento per sviluppatori dove c'era proprio BlackBerry 10, giusto? Sì, si sviluppava anche per questa nuova piattaforma e c'era questo prototipo full touchscreen, quindi il nuovo sistema operativo di BlackBerry funzionerà anche in combinazione con la tastiera fisica, ma i primi prodotti che arriveranno saranno full touchscreen. Devo ammettere però che, a differenza di quanto fatto finora, il BB10 funziona bene anche col touchscreen, la tastiera è comoda e pratica, ha un sistema di individuazione delle parole predittive che è piuttosto pratico e ribadisco, funziona bene, cioè è organizzato bene, è alla pari dei migliori sistemi operativi oggi. Cosa succederà? Quando qui esce? Allora, doveva essere fine 2012. Poi sì, mi sembra un po' il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che doveva essere quest'estate, poi l'autunno, poi è arrivato, vabbè, siamo ancora in autunno effettivamente, ma BB10? Si parla inizio 2013, ma visto che a maggio di solito loro tengono il BB World, che è questo evento mondiale dove presentano le novità, probabilmente sarà quella la sede del primo dispositivo. Non so se fanno in tempo però, cioè, lo dico, non so se fanno in tempo per il mercato, perché il mercato si sta concentrando su iOS, Apple, su Android e su, lentamente in crescita, Windows Phone. Loro hanno perso un semestre quest'anno, purtroppo, e comunque hanno riscontrato qualche problema di programmazione, perché in effetti è una piattaforma abbastanza impegnativa, che è QNX, quella che hanno usato anche per il tablet, per il playbook, quindi. E poi sono passati a un approccio totalmente touchscreen, per un'azienda abituata a fare tastiere, insomma, si sono sommate un po' di vicissitudini. Quindi non ci sarà più la tastiera? È supportata dai dispositivi, ma nella prima fase sono touchscreen. Giancarlo da Modena, buonasera. Sì, buonasera. Io chiedevo questo: la tecnologia RFC per i pagamenti, siccome su iPhone non ci sarà, come funzionerà? No, su iPad non c'è. Chi l'ha detto? Non ci sarà, è il futuro, quindi diciamo non lo sappiamo, anzi sicuramente verrà supportata. Grazie Giancarlo, la salutiamo. Allora, questo mi piace come spunto. Allora, io sono d'accordo con Apple, perché ha fatto una scelta intelligente di non inserire il chip NFC sia su iPhone che su iPad, perché al momento questa tecnologia viene utilizzata in giro per il mondo, parlo del mondo occidentale, Stati Uniti, poi non parliamo dell'Asia perché quello è un altro mondo. Nel Giappone i pagamenti con gli smartphone vengono fatti già da parecchio tempo. Allora, ci sono dei test in giro un po' per tutta l'Europa e anche negli Stati Uniti, ma nessun servizio commerciale. Gli altri operatori, anche per distinguersi, anche per fare un po' di concorrenza e per metterlo tra le caratteristiche, hanno cominciato, direi quasi tutti, a supportare, ad avere NFC, ma se pensiamo che i servizi commerciali verranno lanciati, se va bene, in Italia nel prossimo anno, ma c'è chi dice anche nel 2014, ma ritengo che nel 2013 qualche cosa si vedrà. Io ho partecipato per 2 giorni al NFC and Mobile Money Summit che c'è stato qui a Milano, mi sono fatto una idea molto approfondita del tema e ho pensato, beh, forse è meglio aspettare un pochettino per parlare di queste tecnologie perché ancora non sta arrivando nulla. Allora, è vero che ci sono dei test, quasi tutte le banche e gli operatori telefonici stanno partendo con alcuni test, con alcuni clienti per sperimentare la tecnologia, ma non c'è ancora nessun tipo di servizio. Probabilmente vedremo delle applicazioni, come diceva prima Massimo Morandi, cioè telefono, quindi per scambiarsi magari un messaggio. Massimo, aggiungi. Allora, sono d'accordo con te, la filosofia di Apple poi è sempre stata quella di introdurre una funzione quando il servizio commerciale non solo operativo, sì, ma è sì, anche ben rodato. Però io devo dirti che ammiro anche molto chi comunque partecipa alle sperimentazioni senza le quali non si arriverebbe ai servizi in commerciali. In effetti Samsung, visto che ha inserito il chip dappertutto, sta partecipando a tutte le sperimentazioni. C'è una cosa che ti voglio segnalare però, che è data come in partenza per dicembre, quindi prima di Natale, dell'operatore Poste Mobile, che consentirà con il telefonino di pagare pacchi, cioè tutto quello che è la movimentazione postale. È naturalmente un primo passo, ma ci fa vedere non quali con sono NFC. Con NFC. Ah, con sì, NFC. Sì, sì, con NFC. In posta cioè, anche con il postino, che naturalmente sarà dotato di un dispositivo NFC. Sì, sì. Per concludere questo discorso, se uno è abbonato al servizio di trasporto pubblico di Milano avrà visto che ci sono i controllori, esatto, che hanno già un lettore NFC perché controllano in questo modo l'abbonamento. Però altra cosa sono i pagamenti tramite cellulare, perché stanno muovendo un mondo che effettivamente si sta interessando al dossier, mondo però molto complicato perché bisogna mettere d'accordo gli operatori telefonici che vogliono le banche. Puoi dirla ad alta voce. Assolutamente. Le banche, tutti i sistemi di carta di credito, tutti i produttori di tecnologie, perché vanno cambiate anche le SIM che devono contenere un chip per la sicurezza. Insomma, è un mondo che si sta lentamente trasformando, ma ci vorrà qualche tempo. E per chiarire anche l'ultimo punto, perché vedo che molti lettori ci chiedono: ma quando sarà possibile pagare sottraendo il costo di un bene dal conto telefonico? La risposta è mai. Sì, con molta probabilità. Difficilmente. Perché come hai appena detto tu, l'NFC potrà veramente decollare quando ci saranno degli accordi tra gli operatori e le banche. Sì. Difficilmente le banche potranno rimanere fuori da questo business. Certo, anzi, il modello è proprio che le banche si occupino di fare la banca e gli operatori del resto. Ma, Luca. Dicevo solo che per l'iPhone e l'iPad, in perfetto stile concreto Apple, c'è Passbook. Quindi non hanno messo l'NFC, hanno messo un'applicazione che è una piattaforma per raccogliere i QR code, che sono quei codici a barre quadrotti, e quindi hanno girato così il problema. Sì. Concludo, visto che l'ascoltatore mi ha eccitato, diciamo, da questo punto di vista, perché è un tema che mi interessa moltissimo, è molto interessante, però si rischia, parlandone oggi, di dire faremo, succederà, chissà quando, non lo sappiamo, che visto che tutti sono consapevoli che NFC sarà una tecnologia che si diffonderà, io devo dire abbastanza... sono abbastanza certo che si diffonderà perché è molto semplice utilizzarla, ma visto che ci metterà un po' di tempo, ci sono alcuni operatori che stanno portando anche in Europa e anche in Italia alcune tecnologie che si sono diffuse negli Stati Uniti per i pagamenti. Mi spiego, piccoli lettori che vengono inseriti negli smartphone che accettano le carte di credito. In questo modo un idraulico potrà, comprando e abbonandosi a questo tipo di servizio, comprare un piccolo lettore, lo inserisce su uno smartphone e può ricevere il pagamento con la carta di credito dalla persona. Che ne so, a Luca Figini si rompe un tubo e lui paga all'idraulico direttamente con la carta di credito sul lo smartphone, sì, dell'idraulico. Devo dire che alcuni servizi verranno lanciati nei primi mesi del prossimo anno e sicuramente 2024 inviteremo le aziende che lanceranno questi servizi. Chiusa questa pagina dedicata ai pagamenti, volevo chiedere a Luca Figini, visto che da ieri è sul mercato iPad Mini, che è un 7,9 pollici, giusto? 7,9 pollici, che guarda caso è speculare 1,7 pollici dell'iPad grande. Ah, sono cifre invertite. Certo. Allora, questa è una nuova categoria, potremmo dire, o meglio, è una categoria che si inserisce in quella già sperimentata dai tablet 7 pollici. Cioè la inseriamo nei tablet mini, giusto? Sì, di fatto è questa nuova segmento di mercato, questa nuova... questo nuovo filone che si è aperto. Ricordiamo che il mercato comunque è stato aperto dall'iPad, e qualcuno su internet dice che l'arrivo dell'iPad mini è stata una cancellazione della filosofia di Steve Jobs, che assolutamente sosteneva che solo con i tablet a 10 pollici si potevano soddisfare i bisogni degli utenti. In realtà poi dopo due anni, anzi quasi tre dal primo tablet, probabilmente il mercato si è un po' differenziato. Apple doveva assolutamente tamponare quel tipo di segmento, perché Android su lì ci ha fatto il successo, si vede il Nexus 7, si vede il Kindle, si vedono anche tutti i tablet low cost tipo di Mediacom, di Samsung, che si trovano nei negozi, e andare avanti con un tablet da solo 10 pollici, quindi con un solo modello, poteva essere un po' rischioso. Tanto per farti un esempio, alcuni analisti sostengono che in questo trimestre Apple venderà circa 20 milioni di iPad tradizionali, quindi da 10 pollici, 9,7 pollici, e addirittura 10 milioni di iPad mini, per un apporto sul fatturato di oltre 3 miliardi di dollari. Quindi insomma è un terzo delle vendite, si prospetta. Non è stato solo un ingresso in un segmento nuovo presidiato dal principale concorrente che è Android, ma è stato un allargamento nel mercato, perché anche aggiungendo l'iPad mini, che ha un display da 7,9 pollici e un prezzo d'ingresso di 329 euro, Apple ha segmentato la sua offerta. Quindi ha un modello entry, un modello di fascia media che è l'iPad 2 a 3,99 e un modello di top di gamma che sono il nuovo iPad da 4,99 in poi. Sì. Senti, quali sono i concorrenti di iPad mini? Che costano comunque tutti meno. Allora, devo dire che in questo caso l'Apple è conscia del fatto che ha un brand e ha oggettivamente il miglior sistema operativo, il miglior ecosistema ancora oggi, per semplicità, per intuitività, eccetera, conscia di questo dice: io lo faccio pagare di più. Sì, è il top di gamma. Comunque Apple quando entra col top di gamma, quindi l'iPad mini è il top di gamma dei tablet da 7 pollici, potremmo definirlo in questo modo, così come l'iPhone è il Rolex dei telefonini, insomma. Sì. Quali sono i concorrenti? I concorrenti principali sono il Nexus 7, 249 euro, che ha display da 7 pollici, 1280x800 pixel, ed Android 4.1, sta per arrivare l'aggiornamento ad Android 4.2. Il Kindle. Il Kindle Fire HD, perché il Kindle Fire da 159 euro ha il display ancora vecchio da 1024x600 pollici. Il Kindle Fire HD ha già display in HD, appunto come dice il nome, e costa 199 euro. Poi c'è il Samsung Galaxy Tab, venduto a prezzo di costo, e questo ha detto anche Bezos di Amazon, ha detto: noi non ci guadagniamo niente. E uno potrebbe domandarsi perché, volete legarmi ad Amazon? Sì. E io dico no. Il Kindle Fire vive proprio sulla forte integrazione con la piattaforma di Amazon. Cioè è vero che è un Android 4.0, ma per esempio non puoi scaricare dalla Google Play, cioè dal market di Android, puoi solo scaricare dal market di applicazioni di Amazon, puoi connetterti al sistema cloud di musica di Amazon, puoi scaricare libri, che dove loro fanno principalmente i guadagni, ma non puoi avere tutte le funzioni che Android, insomma è una piattaforma personalizzata. Altri concorrenti? Altri concorrenti citerei il Galaxy Tab 2 7.0 di Samsung, che a 399 euro ha anche il 3G integrato, quando per averlo sull'iPad mini deve spendere almeno una trentina di euro in più. E il Mediacom S2, che ha un rapporto qualità-prezzo interessante, perché 7 pollici, display 1024x600 pixel, processore dual core, 169 euro. Mediacom è un brand datamatic italiano? Sì, italiano. Perché ce lo citi? Ve lo cito perché ha raggiunto quest'estate risultati di vendita notevoli, addirittura piazzandosi al secondo posto nella stagione estiva per una serie di offerte aggressive che ha fatto sui principali retail italiani, quindi addirittura con tablet Android a 99 euro. Allora, c'è chi dice che iPad mini è una buona scelta per le signore perché va in borsetta, ma io vorrei chiedere a Figini, poi Morandi se vuole aggiungere, a chi serve un tablet più piccolo rispetto ai tablet classici? Io mi trovo molto bene con una versione 10 pollici. Il tablet piccolo lo porti dove vuoi. Io tu dici per portabilità. Io lo uso da ieri come tu e ho praticamente dimenticato il mio da 9,7 pollici perché me lo tengo in tasca, è più piccolo, lo sono guardato ieri sera a letto per guardarmi un film per esempio, io trovo più pratico. C'è da dire una cosa, il tablet più piccolo ha un rapporto tra prestazioni e dimensioni ingombri proprio in virtù del display più piccolo che è interessante perché veramente lo metti in tasca, lo metti in borsa, non pesa neanche tanto, pesa quasi la metà di quello di 10 pollici. Però poi quando digiti, quindi quando fai un'interazione un po' più evoluta del digitare un messaggio, una mail, il tablet a 10 pollici è più interessante perché usi per esempio le due mani per scrivere. Bisognerebbe averli tutti, però effettivamente poi il portafogli si svuota. Quello è l'auspicio. Ecco, delle aziende. Certo. Ma Massimo, c'è un problema ulteriore, perché poi ti vorrei citare un'altra categoria, che è quello della complessità di questo mercato. Ne parliamo tra un minuto. 2024. Leggo un messaggio di Gianni, ci sembra molto intelligente questo messaggio. Windows Phone potrà avere spazio nelle aziende al posto di RIM per la sua ottima gestione centralizzata e la facilità di sviluppo di business applications. Corretto, non abbiamo nulla da aggiungere e lo abbiamo letto. Massimo, dicevo che effettivamente il mercato è diventato più complicato per due motivi. Forse ne possiamo aggiungere anche altri, ma due motivi sostanzialmente. Il primo è che ci sono tantissimi prodotti, tantissime categorie, 4 pollici, 5 pollici, 7 pollici, quasi 8 pollici, 10 pollici, per stare solo nel mondo della mobilità. E poi i sistemi operativi, effettivamente prima di acquistare un prodotto uno deve passare settimane e settimane oltre che ad ascoltare 2024, ma a studiare, magari leggere cellulare magazine, portatili e tablet, eccetera eccetera. Tu che dici? Dico che è vero che tanta scelta spesso genera anche tanta confusione. In questo periodo poi siamo veramente bombardati da tante uscite e capisco che i consumatori possano rimanerne confusi. D'altra parte, l'uscita dell'iPad mini lo conferma, non penso che i target si divideranno tra uomini e donne a seconda del polliciaggio, penso più che l'iPad mini possa essere il primo acquisto per molti. In realtà è vero, non c'è una soluzione al problema che tu hai detto, anche perché spesso sulle grandi superfici è difficile trovare davvero qualcuno che ti dica tu hai questa esigenza, devi comprare questo, perché comunque tanti prodotti sono anche indirizzati ad esigenze particolari. Il problema è che questa voce spesso e questa necessità non arriva al consumatore. Sì. È davvero difficile. Quindi tu dici l'iPad mini potrebbe essere vorrei ma non posso. No, non è un vorrei ma non posso, è una combinazione di prezzo che naturalmente, no, come hai detto tu, non è basso come gli altri 7 pollici, ma non è neanche alto come il 10 pollici, e dimensioni e diciamo prodotto nuovo, e potrebbe essere un buon mix per indurre chi ancora non ha mai provato un tablet ad acquistarne uno. Sì. Naturalmente questo vale anche per il Nexus 7. Certo, cito un'altra categoria che è stata inventata, possiamo dirlo, da Samsung, perché è vero che Samsung ha beneficiato moltissimo dal sistema operativo di Google che è Android, è vero che in alcuni casi è stata accusata e anche persa in tribunale di avere preso spunto, copiato altri, però devo dire che questa azienda ha fatto molte innovazioni e il successo commerciale e il successo di mercato di Samsung arrivano anche da queste innovazioni, oltre che politiche commerciali molto aggressive, insomma prezzi aggressivi eccetera. Però il Note, che adesso è arrivato al Note 2, è una ulteriore categoria, lo cito oltre per il fatto che è un'altra categoria, ma anche perché Samsung questa settimana ha annunciato di avere venduto 3 milioni di unità in un mese, che è più o meno il doppio o comunque il triplo rispetto alla versione precedente. Comunque un grande successo, cioè il dato preciso. Eh sì, questa è un'altra Fablet è un incrocio tra un telefono e un tablet, un phone e un tablet. Vendite triplicate rispetto al Note 1. Quindi si dice phablet, esatto. Cioè che sta per phone e tablet. Sì, sì. È un termine abbastanza brutto secondo me, perché il prodotto meriterebbe un termine migliore, nel senso che è secondo me molto più simile a uno smartphone con formato largo piuttosto che a un tablet, per tipologia, per estetica e per funzionalità soprattutto, naturalmente sempre con la connettività 3G. Ti dico però una cosa, noi l'abbiamo provato. È naturalmente 5,5 pollici, è una misura importante, è comunque un telefono che è sufficientemente sottile e non troppo pesante, quindi sta sempre bene nella tasca, è piatto, sta nella tasca della giacca, ma soprattutto, tu mi dicevi prima, i consumatori sono confusi, è vero, ma se la tua esigenza è di avere comunque un telefono con cui puoi gestire il tuo tempo libero, ma anche lavorare, quindi stiamo parlando di testi e di mail e di internet, utilizzi questo telefono e non torni più indietro al 3.7 o al 4 pollici. È incredibile, io dico provatelo, ma perché poi è veramente difficile. Dà un po' di dipendenza. Assuefazione, sì. No, secondo me la cosa oltretutto interessante di questi del Note e del Note 2 è l'uso dello stilo. Cioè il pregio di questi prodotti è aver riportato... Che non lo usi con le dita? Lo usi anche con le dita perché è touchscreen, ma nella parte inferiore estrai anche lo stilo. E lo stile è ancora più naturale, se vuoi, come interazione, perché noi siamo abituati a scrivere con le penne, a interagire o con la tastiera. E lì puoi veramente rispondere alla mail scrivendo, piuttosto che disegnare o fare altre cose che ti permettono di essere più vicino all'uso del taccuino, della carta e della penna di quando eri un po' più giovane. Un nostro ascoltatore via Twitter mi dice ho acquistato Nokia perché rimane l'unica azienda in grado di garantire alta qualità di ricezione. Allora, sicuramente questo è vero. Gli altri però hanno fatto dei passi avanti, non indifferenti, Massimo. Adesso non so se il nostro ascoltatore si riferisca al tipo di ricezione radio o al tipo di ricezione di ascolto. Io posso aggiungere che giusto, Nokia rimane comunque, continua a proporre prodotti di grandissima qualità dal punto di vista acustico. Che non è sotto, poco. Parlando alla radio, però, non so se notate, cari ascoltatori, le tante telefonate che vanno in onda e quante sono di cattiva qualità. Un po' è colpa degli operatori, che potrebbero fare un po' di più per migliorare la qualità di ricezione. Io ho parlato più volte con grandi produttori di reti che hanno tecnologie per migliorare la ricezione, anche la qualità dell'audio, e gli dico: ma li vendete? No, perché gli operatori faticano ad investire in questo settore. Luca? No, dico solo che dopo un mese di prova l'iPhone 5 è finalmente anche un telefono. Ah, certo. No, dicevo, invece il punto ancora debole, lo è stato almeno fino all'ultima generazione di smartphone, è la batteria. Purtroppo sono stati fatti telefoni sempre più... che richiedono ampia livello di prestazione, processore, sì. E però alla fine ci si lavora, perché nascono anche per questo, ma non si arriva la sera, e questo non va assolutamente bene. Oggi devo dire che sulla nuova generazione vengono integrate batterie, perché poi il problema è questo, non è che i telefoni consumano meno, vengono integrate batterie più potenti che ci permettono di arrivare ampiamente a sera, magari fare anche un pezzettino della seconda giornata, comunque c'è la possibilità di ricaricare. Parlando di ricarica, chiudiamo con questa chicca che è interessante, perché ci dà anche forse un trend che vedremo nei prossimi anni. Tu hai detto i nuovi Windows Phone si caratterizzano anche per telefoni più avanzati ed evoluti, è vero. Io volevo sottolineare un accessorio con cui con grande probabilità uscirà anche il 920 in bundle, quindi in confezione, ed è una sorta di tappetino che si attacca, si connette alla presa di alimentazione e rimane come una sorta di... Parliamo di uno svuotatasche che può rimanere in casa come pezzo di arredo. In soprammobile, realtà, comunque. Un soprammobile che non è altro che un caricabatterie a induzione. Quindi cosa significa? Significa che noi entriamo in casa con il telefono probabilmente scarico, lo appoggiamo su questo tappetino e un piccolo beep ci segnala che il telefono ricomincia la carica senza dover connettere il cavo, il mini USB o quindi, il micro USB. E probabilmente questo sarà il sistema di ricarica dei telefoni nel futuro. Secondo me sarà il sistema di ricarica del futuro dei dispositivi elettronici, quindi dei telefoni, di tutti i dispositivi, delle fotocamere. Deve essere il telefono abilitato per questa funzione, quindi ad esempio i Lumia sono abilitati. Esatto, si deve avere una superficie che trasmette. Esatto. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Massimo Morandi e Luca Figini, che questa settimana avete lanciato un'app nuova di Cellulare Magazine. Abbiamo giusto? Lanciato la nostra app Android, che si trova quindi sul Google Play, potete scaricarla e leggere le nostre news direttamente sul vostro smartphone. Bene, grazie anche a Anita Panizza che ci ha aiutato in redazione, Nadia Zammitti e naturalmente a Pietro Lacorte. Io sono Enrico Pagliarini, potete cercarmi e trovarmi su Twitter, su Facebook, oppure scrivere una bella email al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Massimo, ciao. Ciao Enrico, un saluto a tutti. E Massi, e anche un saluto a Luca Figini. Ciao, buona domenica. Bene, noi ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di 2024. 2024.